24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Raffaella Calandra, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano un altro nulla di fatto a Bruxelles, stavolta sulla supervisione bancaria, poi il rapporto internazionale sulla trasparenza e infine il nuovo regolamento per i prodotti di salute. Ancora un rinvio in Europa per troppe divisioni e ancora una volta a essere rimandata è una tappa fondamentale. Dopo la decisione sugli aiuti alla Grecia, anche la supervisione unica delle banche europee viene posticipata al 12 dicembre a causa delle troppe divisioni. Divisioni che ancora non consentono ai 27 paesi di realizzare quello che avevano promesso a giugno, quando si diedero tempo fino a fine anno per chiarire come avrebbero messo in sicurezza il settore bancario, proteggendo i cittadini dalle conseguenze. In attesa delle decisioni della BCE sui tassi, Piazza Affari conclude la seduta col peggior risultato tra i listini del vecchio continente. Saipem nella bufera a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di infrastrutture per l'oil and gas è scivolato di oltre il 4% in borsa ed è stato sospeso dalle contrattazioni dopo le prime indiscrezioni sul coinvolgimento della società nell'inchiesta che riguarda la società petrolifera algerina Sonatrach e che ha portato alle dimissioni dell'amministratore delegato della stessa Saipem, Pietro Franco Tali, e alla sospensione di un altro manager. Saipem è stata la peggiore del FTSE MIB, cedendo infine il 4,3% e ha trascinato in basso la controllante Eni, che ha perso l'1,76%. Effetto Lumia per Nokia, capace di guadagnare quasi il 10% alla borsa di Helsinki dopo la presentazione del nuovo smartphone versione 620 e il lancio in partnership con China Mobile della versione 920T. Da Radio Corp e Radio 24, Andrea Fontana. L'Italia, maglia nera per trasparenza. Il nostro paese scivola al 72esimo posto nel rapporto annuale di Transparency International sulla corruzione nel mondo. 11 stati europei sono invece tra i primi 20, sul podio paesi scandinavi e Germania. When politicians don't make decisions to benefit the public, but rather themselves, this is corruption. 42 punti su 100. L'Italia peggiora ancora sul fronte delle tangenti a politici e pubblici funzionari. Lo afferma il rapporto 2012 di Transparency International, una ONG basata a Berlino che da 20 anni misura la corruzione in 176 paesi. Un fenomeno che, spiega, non è solo una busta piena di soldi, ma un modo per trasferire a un'oligarchia i vantaggi che dovrebbero essere di tutti. Italia messa male, dunque, all'interno di un continente europeo che occupa 11 dei migliori 20 posti. Noi siamo 72esimi, superati da Brasile, Romania e Ghana. Peggio nell'Europa 27 solo Bulgaria e Grecia, precipitata a quota 100 con Colombia, Gibuti ed India. Oltre alle superstar scandinave aggrappate da sempre ai primi posti, la palma della minima corruzione pubblica viene divisa tra Nuova Zelanda, Svizzera, Olanda, con una Germania al 13esimo posto e la Francia al 23esimo. Insomma, la corruzione non stringe la cinghia, ma al contrario sembra alimentarsi della crisi economica e finanziaria. Help citizens to demand accountability. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. È essenziale che la comunità internazionale aiuti la popolazione del Mali a trovare una soluzione duratura alla crisi. È il messaggio lanciato da Catherine Ashton, capo della diplomazia europea, dopo aver incontrato l'inviato speciale dell'ONU per il Sahel, Romano Prodi. E l'alto rappresentante europeo per la politica estera ha poi rinnovato l'impegno a favorire la stabilità nel Mediterraneo del Sud, dove la tensione resta alta, soprattutto in Siria ed Egitto. Mohamed Morsi è tornato al lavoro nel palazzo presidenziale, ma centinaia di persone sono ancora radunate in sit-in di protesta contro il decreto con cui il presidente si è attribuito poteri speciali, che hanno consentito a un'assemblea costituente molto contestata di redigere la nuova costituzione d'impronta fortemente islamica che sarà sottoposta a referendum tra meno di 2 settimane. Un testo che non soddisfa l'opposizione liberale e laica del paese, ma che lascia perplessa anche l'Unione Europea. Una prima valutazione, ha detto Bernardino León, rappresentante speciale europeo per il sud del Mediterraneo, non è tanto su quello che c'è, ma su quello che non c'è. Ad esempio, i diritti delle donne non ci sono. L'obiettivo, ha aggiunto Leon, dovrebbe essere un testo che garantisca parità e dignità per tutti, perché il rispetto delle minoranze è un elemento chiave delle democrazie. Intanto prosegue il tam-tam sui social network egiziani per dare sostegno ai manifestanti che intendono restare in piazza finché le loro richieste non saranno accettate. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. Nuova multa contro un nuovo cartello. La Commissione europea ha deciso di infliggere una sanzione da 1,47 miliardi di euro a 7 gruppi internazionali del settore dei tubi catodici. Da LG Electronics a Philips, da Samsung a Panasonic e Toshiba avrebbero fatto cartello per TV e computer tra il 96 e il 2006. Il 14 dicembre entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo sulle diciture salutistiche dei prodotti e degli integratori alimentari. Con le nuove regole solo i 222 slogan accettati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare potranno essere stampati sulle etichette dei cibi Tocca Sana e l'industria alimentare dovrà quindi adeguarsi. Al microfono di Maria Luisa Pezzali, Silvia Valtuegna Martinez, esperto scientifico dell'unità nutrizione dell'EFSA, che spiega come si arrivati al nuovo regolamento. L'EFSA ha classificato più di 4.700 claims o indicazioni nutrizionali o sulla salute, fondamentalmente in base al principio attivo, come le vitamine, minerali, le fibre o gli acidi grassi. Però in altri casi, quando l'effetto benefico di questi slogan non era chiaro o non poteva essere valutato, l'EFSA li ha recuperati per tipologia, spiegando in modo molto trasparente perché non potevano essere valutati. Ci può fare qualche esempio? Farei un esempio di un claim che è veramente su molti prodotti sul mercato, gli acidi grassi omega 3 e il loro effetto sulla salute del cuore. Effettivamente questo è un tipo di slogan che ha ricevuto un parere positivo e che è stato autorizzato dalla Commissione Europea. Un esempio dei claim negativi che sono anche abbastanza nei mezzi di comunicazione questi giorni sono i probiotici o gli antiossidanti. Questi pensieri attivi in generale hanno ricevuto pareri negativi perché in alcuni casi erano stati attribuiti loro dei claims poco chiari o molto difficili da valutare da un punto di vista scientifico. Di questo tema si occuperà domenica Essere ed Avere in onda alle 16. Un'assicurazione contro i terremoti e le alluvioni, un'assicurazione obbligatoria per coprire rischi su strutture sia dello Stato sia dei privati. Lo prevede la bozza su linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione sostenibile e la messa in sicurezza del territorio che il ministro dell'Ambiente Clini ha inviato al CIPE. Zeno Zenkovic, rettore dell'Università Luspio, ne ha parlato a Roma presentando una ricerca sul modello italiano. Ma il problema qual è? Nella nostra ricerca quello che noi evidenziamo è come in realtà in un paese come il nostro, ma in realtà non è solo il nostro, i disastri naturali sono purtroppo all'ordine del giorno e sono assolutamente ubiqui, cioè si verificano. Se noi avessimo un anno fa cercato di vendere una polizza antisismica in Emilia ci sarebbero riso in faccia, invece purtroppo è successo quello che obiettivamente nessuno si aspettava. Allora qui mi pare che la risposta debba essere innanzitutto una risposta solidaristica, nel senso che l'Italia dobbiamo essere solidali e non dobbiamo ricorrere a quelle numeri verdi, quelle sottoscrizioni speciali per l'Aquila, per l'Emilia, per le popolazioni alluvionate. Dobbiamo avere un meccanismo pubblico. In questo contesto il discorso europeo... Qua c'è anche un problema che il patto di stabilità ovviamente determina una notevole compressione delle spese pubbliche. L'intervento diretto delle finanze statali rischia di cadere sotto la scure del contenimento del disavanzo pubblico imposto dall'Europa. Se invece noi introduciamo dei meccanismi che sono in termini concreti e finanziari privati, quali quello dell'assicurazione, ma al tempo assicuriamo una serie di interessi di grande rilievo pubblico e sociale, io credo che uno dei primi effetti benefici che a livello europeo è proprio quello di togliere dalla spesa pubblica e quindi dal nostro disavanzo statale, togliere delle ingenti spese che invece purtroppo oggi quando andiamo a spendere 600 milioni per il terremoto, quei soldi sono comunque soldi che gravano sul bilancio dello Stato, sul disavanzo dello Stato. Sono pronto a fare il possibile per trovare una soluzione. Il commissario europeo all'ambiente, Potocnik, scrive alla città di Taranto sul caso Ilva, ma ammette che la protezione della salute pubblica e l'ambiente sono principalmente di competenza dei governi. La Commissione Bilancio del Parlamento europeo ha dato il suo via libera alle proposte per integrare il bilancio europeo 2012 e varare quello del 2013, gettando così le basi per un accordo con il Consiglio. Secondo uno dei relatori dei provvedimenti, l'europarlamentare PDL Giovanni La Via, è stato così scongiurato il rischio di discontinuità per alcuni programmi europei, come l'Erasmus, quelli dedicati alla ricerca e alle PMI. 24 ore in Europa termina qui, un saluto da Raffaella Calandra. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.